Ciao, sono Emilio, ho 39 anni, sono ingegnere di Roma, vorrei uscire con Lara perché ho girato mezzo mondo, ho visto tante cose, mi è venuta voglia di fermarmi un po', mi sembra una persona interessante e visto che i nostri profili sembrano sovrapporsi, certo temo che non la potrò mai aiutare in politica, però è un ottimo inizio insomma.